i nostri soldi su una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Sì, viaggiare evitando le buche più dure, senza per questo cadere. Allora fateci sognare, noi che siamo qui seduti incollati alla sedia di fronte al nostro microfono, dove trascorrerete questo giorno di festa, anzi questo ponte da qui a domenica, a lunedì, che molti hanno la fortuna di fare. Con che mezzo vi siete spostati o vi state spostando? È bene saperlo, perché intanto, caro Mauro, come ogni ponte che si rispetti, ha il rincaro dei carburanti che lo accompagna. Ma guarda, cara Debora, casualmente. Buona giornata allora anche a questo punto, anche a tutti gli automobilisti. Infatti. E infatti abbiamo se portato... Se ne sono già accorti, probabilmente, se sono partiti il pieno Se hanno fatto il pieno, probabilmente l'hanno già notato. Ma noi abbiamo portato qui un collega del Sole 24 Ore particolarmente versato, mi verrebbe da dire. Ce l'ha portata in sconto la benzina, il carburante. Poi ci procura anche qualche rifornimento. Esatto. Maurizio Caprino, a cui buongiorno. Do il benvenuto, buongiorno. Esatto, allora, perché lui parlerà invece degli automobilisti, non quelli che fanno il pieno, ma quelli un po' indisciplinati. Quelli che magari superano il limite di velocità, a volte il piede scappa, come dire. Cosa vuoi fare? E uno non si accorge che c'è l'autovelox, che è come l'IVA l'autovelox, cara Debora. Ti guarda ovunque. Ti guarda. Quindi di questo parleremo, ma non solo, abbiamo tanti argomenti oggi. No, perché parliamo anche di viaggi aerei. Vabbè, ovviamente c'è stata la vicenda di Ryanair, la cancellazione dei voli, ne abbiamo già parlato, due di denari, i diritti degli utenti, che succede, che ne è delle mie prenotazioni. Ma spesso, devi sapere Debora, la stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea interviene sui diritti pure dei passeggeri. Guarda. Sì, è abbastanza vigile, per lo più interviene a favore dei diritti dei passeggeri, sì. In qualche caso in realtà è meno favorevole, esatto. Ma ne parleremo durante questa, la trasmissione. Questa diciamo pronuncia della quale parliamo stamattina riguarda le modalità di comunicazione di voli modificati e cancellati, e quindi maggiori tutele in questo senso. E poi parleremo anche, per completare il nostro ragionamento stamattina sul argomento viaggiare, fate attenzione che è naturalmente un tema assolutamente in linea con l'attualità drammatica delle ultime ore. Negli aeroporti americani sono scattati controlli più rigidi e minuziosi, per cui armatevi di santa pazienza, perché uscire da JFK o dagli altri aeroporti a stelle e strisce comporterà un po' più tempo del previsto. In realtà non sono novità proprio dell'ultima ora, perché molti tour operator e compagnie fanno già arrivare, per esempio, in aeroporto con largo anticipo i passeggeri che devono partire, quindi comunicano poi tutta la rosa dei controlli che saranno fatti. Però per chi per la prima volta andrà negli Stati Uniti, magari non lo sa, armatevi di tutte le informazioni. Sì, armatevi anche di santa pazienza, perché come sapete via via in questi anni i controlli sono diventati più serrati, più stringenti. Esatto, e alla luce di quello che è successo a New York nelle ultime ore, non so se Mr. Trump implementerà ulteriormente le misure. Esatto, ci dobbiamo aspettare una ancora maggiore vigilanza. Benissimo, facciamo intervenire anche stamattina gli ascoltatori, a dimostrazione del fatto che noi siamo in diretta, anche se non siamo live su Facebook stamattina, però ci tieni siamo particolarmente, sì, a ricordare che ci facciano compagnia. Sì, sì, esatto. Chiamateci, siamo qui in una splendida giornata da qualche autogrill. E noi fortunati che siamo al lavoro, perché si può anche dire così, riceveremo con piacere le vostre telefonate all'abituale numero per intervenire in diretta 800240024, oppure i vostri SMS WhatsApp, ce li potete mandare, che so, anche dalla macchina, dall'aereo, no, spegnetelo il cellulare in aereo. Non chi guida, fatelo fare il passeggero, esatto. Si intende, esatto. Il passeggero. E allora il numero per gli SMS e WhatsApp è sempre lo stesso, 349-238-6666. Andavo a 100 all'ora per trovare la bimba mia, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Andavo a 100 all'ora per cantarla. Peraltro è un peccato che non ci sia Facebook oggi, perché Maurizio Caprino si è vestito con questi colori autunnali che a me piacciono moltissimo. Posso fare una volta tanti complimenti al look dell'ospite? Ma certamente, fallo pure. Non sono geloso, Ciao Maurizio, ben ritrovato. Ciao, aggiungiamo anche il rosso del viso per come fare a rossire. Ah, figurati, guarda. Allora, se vi state trasferendo in qualche bella località dove godervi questo meraviglioso scorcio d'autunno, attenzione come sempre ad osservare i limiti di di velocità, perché gli autovelox, come diceva Mauro prima, ci guardano sempre, sono sempre in agguato. Ma a parte chi si mette in viaggio in queste ore, c'è anche chi sta gestendo probabilmente qualche posizione arretrata e sta ricevendo delle multe per eccesso di velocità per infrazioni commesse in passato. E per questi automobilisti, allora mi traduci un po' le notizie che scrive Maurizio. Sì, volentieri, Mauro, se allora, ci sono delle buone notizie o no? Allora, dici Maurizio, come, cosa possiamo dirgli? Allora, c'è la possibilità di aver ricevuto una multa rilevata da un sistema di rilevamento della velocità, volgarmente autovelox, che tuttavia non era tarato a dovere. Esatto, cioè non è che mentre prima la frontiera era tarato o no, adesso la frontiera si sposta, tarato a dovere oppure no. E quindi il confine è stato tracciato a partire dal 1 agosto scorso, quindi periodo di piene vacanze, eccetera, eccetera. Il 1 agosto è entrato in vigore un decreto ministeriale che dice anche come vanno tarati. Dopo che nel 2015 la Corte Costituzionale aveva detto che vanno tarati, Noi con calma li abbiamo tarati tutti. In un paio d'anni ce l'abbiamo fatta. Diciamo che non proprio tutti, non proprio tutti, però per fortuna sembrano casi solo residuali. In ogni caso, diciamo, le cose sembravano chiare dal 1 agosto scorso, ossia che bisognava fare delle tarature anche annuali a velocità fino ai 230 all'ora, che è un bel fastidio perché soprattutto per gli impianti, quelli proprio fissi, è difficile poi smontarli, portarli in un autodromo. Però devo dire che anche quelli diciamo mobili, quindi quelli usati dalla pattuglia che si apposta lì due ore e poi torna a casa, allora anche lì portare queste apparecchiature, pur portatili in pista, comunque comporta un discreto costo. Quindi hanno dovuto praticamente verificare che quelli già in esercizio avessero questa particolare taratura, questo dimensionamento che è stato stabilito nel giugno scorso ed è in vigore da agosto. Esatto, però non lo hanno ancora verificato perché in verità dalle comunicazioni che sono intercorse fra gli operatori del settore nelle ultimissime settimane si scopre che ancora dal 1 agosto questa storia dei 230 km orari proprio al settore non è andata giù. Al settore intendo dire sia gli operatori, quindi i fornitori di apparecchiature, sia soprattutto i comuni o gli enti locali in generale che queste apparecchiature le utilizzano, perché ovviamente queste verifiche vanno fatte affittando una pista, ingaggiando un pilota collaudatore, quindi i costi salgono. Certo. Da tutto questo, Maurizio, ne deriva che per chi avesse malauguratamente commesso un'infrazione per eccesso di velocità nel periodo che va dal 1 agosto in avanti potrebbe teoricamente contestare il rilevamento perché magari potrebbe essere stato stabilito da un autovelox non tarato. Esatto, allora attenzione, anche qui su autovelox non tarato bisogna capirsi, nel senso che tutte le tarature fatte prima del 1 agosto continuano a essere valide e scadono a un anno, per cui se io ho un apparecchio che è stato tarato il 31 luglio il problema si porrà per questo apparecchio soltanto a partire dal 31 luglio dell'anno prossimo. Se però, e ce ne sono già, c'è già qualche migliaio di pezzi che ha avuto il certificato di taratura scaduto nel periodo dal 1 agosto a oggi, e beh, e lì bisogna vedere come l'hanno fatto e molto probabilmente scopriremo che lo hanno fatto in modo non consono, tant'è che per esempio il comune di Milano con una mail ieri sera, con un comunicato stampa che è stato lanciato nelle mail, ha detto che da domani riattiva la postazione di Viale Palmanova dopo dovute tarature, perché quello sì che l'hanno portato in pista, ma il comune di Milano per una volta ha fatto le cose per bene. Tutti gli altri, devo dire, per quello che ho sentito in giro, è un po' meno, per cui bisognerà vedere caso per caso e soprattutto è difficile vedere perché i certificati di taratura, che sono quelli che vengono poi portati davanti al giudice di pace, di questa storia del 230 all'ora non fanno assolutamente menzione, quindi bisognerà trovare un altro modo per dimostrare che la taratura è stata fatta in questo modo, quindi verosimilmente bisognerà andare a ricercare tutti gli atti dell'operazione, tutti i verbali, eccetera, eccetera. Maurizio, ti faccio una precisazione perché il Comune di Milano tra l'altro ha segnalato proprio per, lo dico per gli automobilisti milanesi, che attiverà 7 nuove postazioni, esatto, di Autovelox. Quindi andate, allora, piano, già, se esatto, siete a Milano, dici, se pure venite dove, a Milano, scusami, con la, no, macchina, vabbè, adesso no, mostrerò una mappa, viaggio molto coi mezzi, quindi, qui alla però, radio, detto così questo, tutto stamattina chiaro, ero in macchina, quindi spero di non aver già fatto. Vabbè, no, io su viale il Ponte della Ghisolfa, ecco lì, lì c'è l'Autovelox, c'è lì, comunque c'è, andate piano se venite a Milano, se passate da Milano andate piano, che vi conviene, proprio ve lo dico, non tanto per la salute quanto perché per i denari, il portafoglio, come dice la nostra sigla, perché i soldi sono una cosa seria. La seconda domanda è questa: come faccio a capire la data di taratura dell'autovelox che mi ha pizzicato? Normalmente è scritto sul verbale, cioè i corpi di polizia più scrupolosi, e devo dire che sono un bel quantitativo, riportano non solo la matricola, quindi il numero identificativo dell'apparecchio, ma anche gli estremi del decreto di approvazione del ministero e in più gli estremi dell'ultimo certificato di taratura. Vi dicono addirittura chi le ha tarate, quindi per esempio c'è qualcuno che sta maledicendo l'università di Cassino, che di queste tarature ne fa tantissime. Una parte di una multa che nessuno si sarebbe mai sognato di leggere, adesso andrà a controllare persino questo, ma è incredibile. Di veramente. Solito sono un po' queste multe qua sono un po', perdona Deborah, come quei fogli della MIFID che ti fanno firmare in banca, uno oppure come gli aggiornamenti dei programmi operativi dei computer, uno scorre e poi accetta perché e dà consenso, non ovunque, ha nessuna voglia, esatto. Invece leggetelo se avete ricevuto una contravvenzione, appunto dal 1 di agosto scorso del 2017 a oggi, verificate come era l'apparecchio, quando è stato tarato. Esatto. Se ha la pagella di apparecchio tarato. E a questo punto non solo, se è un apparecchio appunto fisso oppure tra virgolette mobile, nel senso che quello usato dalla pattuglia, perché sui fissi teoricamente c'è la possibilità che non venga fatta questa taratura fino a 230 all'ora. In ogni caso la materia è in corso di evoluzione, perché appunto ci sono diversi mal di pancia nel settore e quindi sono stati già due pareri, almeno in apparenza, contraddittori da parte del Ministero. Me ne aspetterei anche almeno un terzo, e in ogni caso il parere ministeriale non è poi vincolante per il giudice di pace, al quale eventualmente deciderete di fare ricorso. Oh, e questa era la mia domanda, esatto. Infatti mi accorgo che mi hanno pizzicato con un autovelox non a norma, perché esatto, questo avviene, cioè non è stato appunto tarato secondo le nuove esigenze. Quindi vado dal giudice di pace. Sarebbe consigliabile, perché in queste circostanze si tratta un po' anche di interpretare, come abbiamo visto, cioè le norme ci sono però poi si interpretano eccetera eccetera. Allora l'alternativa, che sarebbe anche più comoda, che è quella di andare a far ricorso al prefetto, e oltretutto si può fare ricorso entro 60 giorni mentre la giudice di pace sono solo 30 giorni, e poi il prefetto, insomma ci sono diverse cose, però in ogni caso quando c'è da interpretare il prefetto sta sempre più aderente alle posizioni delle amministrazioni, per cui in prefettura un parere ministeriale conta di più. Il giudice di pace, diciamo, è un po' più libero talvolta, anzi più di qualche volta, è anche molto creativo, devo dire. Ecco, proprio per questo io ti volevo fare questa ultima domanda sul percorso di questi possibili ricorsi. Spesso vediamo che, insomma spesso magari no, ma talvolta ci capita di leggere proprio dai tuoi articoli sul sito o sul Sole 24 Ore che qualche giudice di pace si inventa anche delle decisioni molto favorevoli all'automobilista, al contribuente, che poi però vengono, ohimè, travolte nei gradi successivi. Quando c'è un grado successivo però, perché spesso le amministrazioni non riescono a star dietro a tutto, quindi non riescono a impugnare. Quindi c'è anche in questo caso però mi sembra di capire che se l'autovelox non era tarato correttamente e la contestazione successiva al 1 di agosto, beh, qui c'è poco da interpretare. C'è poco da interpretare, ma c'è da interpretare sulla correttezza della taratura. E lì appunto ci vogliono i 230, non ci vogliono. Insomma, io credo che sia una partita abbastanza aperta, temo che dovremo occuparcene ancora, così come probabilmente ci occuperemo anche dei cosiddetti scout speed, che sono quei rilevatori in movimento. È partito un ricorso al TAR del Lazio per abolire proprio quel decreto che dicevamo prima, il decreto di giugno, in un'altra sua parte, che diciamo esenta questi rilevatori mobili dall'obbligo di essere presegnalati e visibili. Dal Veneto è partito un ricorso che dice no, devono essere presegnalati e visibili anche quelli. Scout speed. Senti un po', Maurizio, qua naturalmente gli ascoltatori maliziosi ipotizzano già che a fronte di tutte queste manutenzioni degli autovelux che le amministrazioni dovranno fare, scatterà in automatico una proliferazione di multe e sanzioni a carico degli automobilisti che a loro volta indirettamente pagheranno queste manutenzioni. Sì, però a non pensar sarà... male non si fa mai, vabbè. No, no, succede già, quindi non si tratta di pensare, si tratta solo di vedere. Il punto però in questo caso, in questi mesi, è un altro, ossia le pubbliche amministrazioni hanno dei bilanci molto rigidi, quindi a inizio anno, a metà anno, insomma quando approvano il bilancio preventivo, loro destinano un tot, stanziano determinate somme che verranno sforate, quindi bisognerà fare delle variazioni di bilancio che non sono proprio semplicissime, quindi anche qua sono rogne. Io ho un'altra curiosità, Maurizio. Spesso il superamento dei limiti di velocità comporta anche della decurtazione dei famosi punti sulla patente. Presentando questo ricorso, cioè siamo sempre nel caso, mi hanno pizzicato, però l'apparecchio non era correttamente tarato perché ho controllato sul verbale, non è stato tarato secondo le nuove richieste del decreto di giugno in vigore al 1° di agosto, faccio ricorso e non pago la multa, quindi la parte pecuniaria, per così dire, è a posto. E i punti della patente, no, però? No, allora lì non devo fare la stupidaggine di non segnalare, perché insieme col verbale mi chiederanno chi guidasse. Allora io quella richiesta quella devo è un'altra bella puntata da rifare al più presto, perché genera molta leggerezza da parte di molte persone. Allora io lì devo adempiere, devo dire che guidavo io. Il problema è che poi loro, l'amministrazione, deve congelare la segnalazione aspettando l'esito del giudizio. E quindi posso avere la possibilità anche di come dire, vedermi non decurtati i punti della patente. Però devo rispondere, altrimenti sono 280 rotti euro che mi partono così. Esatto, così, in libertà. Ivo da Ancona, buongiorno. Che temperatura c'è stamattina nella mia bella Ancona? La sua Castelfidardo, no, ancora lei. Vabbè. Ecco, io ho preso l'autovelox sotto la Santa Casa, si rende conto? A Loreto? La Madonna, sì, quel giorno non era molto... C'è 70, sembra un'autostrada. Comunque qua c'è un sole bellissimo, io sto raccogliendo le olive, sto a Iesi. Grande, io volevo dire solo una cosa, siamo in Italia, facciamo sempre la nostra farraginosità, perché almeno complichiamo la situazione. Allora, sul verbale c'è scritto... quando è stato tarato il lato velox, no? Sì. Ma perché non si mette... No, perché poi esce fuori lì che chiediamo all'osso se il vino è buono. Perché non si mette una targhetta sulla colonnina che tutti i cittadini possono vedere quando è stato... E allora gli equivoci non ci sono più. Una certificazione trasparente sul dispositivo. Ivo, grazie e buona giornata. Maurizio, Farebbe una brutta fine, perché soprattutto le colonnine, le postazioni autovelox fisse sono vandalizzate. Voi non sapete quanto... sono tutte assicurate per forza, perché addirittura insomma, in certe zone sono ben visibili anche fuori di proiettile. Quindi immaginate che fine farebbe una targhetta. Il foro di proiettile mi ha un pochino scosso, Maurizio. Volevo invece dare qualche minuto all'altro tema, cioè il rincaro dei carburanti. Perché viene il periodo degli spostamenti e vabbè, i carburanti rincarano, sono delle coincidenze, non vogliamo dire... No, vabbè, il petrolio in questi giorni un paio di dollari l'ha fatto. Quindi siamo a 60 dollari a Londra, 54 a New York, però insomma le quotazioni internazionali giustificano sempre le compagnie, si adeguano, anche se poi il riferimento per i prezzi di carburanti sono i Platz e... Facci una traduzione simultanea, va, Maurizio, allora, della situazione. Allora, in buona sostanza la quotazione del petrolio greggio è solo un indice molto molto indiretto, perché poi quello che vale sono appunto i Platz, che sono le quotazioni dei prodotti finiti, cioè quelli che escono dalla raffineria, la benzina e il gasolio. Quindi può essere per vari motivi, compresi anche dei problemi, comunque delle cose che accadono nel sistema di raffinazione, che i due andamenti divergano, cioè le quotazioni del greggio siano divergenti da quelle del Platz. Dove però tutto converge è in quella che gli esperti chiamano la driving season, e questo è un giorno proprio di questi, nel senso che quando si prevede che la gente si metta in viaggio in massa, aumentiamo un po' i profitti, va così, facciamo arrotondare il bilancio. C'è una specie di anticipazione della famosa legge della domanda e dell'offerta, qui prevedendo una maggiore domanda, una specie di future della domanda, se perdonate l'arzigogolo mentale. È proprio così. Quello che però noi spesso non diciamo è che poi ci sono dei momenti, come è successo purtroppo o per fortuna sotto certi aspetti in anni non troppo lontani, momenti in cui la domanda flette ancora più del previsto, cioè noi abbiamo avuto insomma, nei primi anni di questo decennio una flessione complessiva del traffico, e poi dobbiamo tener conto anche di un'altra cosa, che i veicoli consumano sempre meno, dieselgate, non dieselgate eccetera, però è certo che il consumo medio effettivo va diminuendo, quindi anche a parità di chilometri percorsi abbiamo meno bisogno di prodotto da consumare, tant'è che insomma anche le compagnie petrolifere stanno insomma esplorando le strade alternative, perché è un business che va comunque non cresce. C'è Nicola che su WhatsApp ci scrive, noi lo salutiamo affettuosamente perché ci segue stamattina, me non importa se i carburanti aumentano perché tanto io faccio sempre 50 euro di rifornimento e però ce ne mette un po' meno Nicola, vabbè, detto questo è ovvio, ha messo anche i sorrisini, ne è pienamente consapevole. Bene, allora salutiamo intanto l'altro ospite che ci ha raggiunto, poi gli chiederemo un minutino di pausa perché vi racconto anche cosa succede in borsa stamattina. Buongiorno e grazie per essere con noi, Nardo Filippetti, presidente di Astoi Confindustria Viaggi, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti voi. Grazie Presidente, perché con lui faremo il punto della situazione invece su quelle nuove regole che sono scattate, le nuove misure di sicurezza per i voli diretti negli Stati Uniti in seguito ad un irrigidimento delle procedure volute dall'amministrazione Trump, orari più rigidi, controlli intensificati, interviste al check-in, misure che presumibilmente, alla luce di quanto accaduto nelle ultime ore, chissà che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane verranno ulteriormente implementate, e quindi vi daremo anche tutti i consigli utili per accingervi a fare un viaggio negli Stati Uniti in tutta serenità. Mauro, che dici? Sì, e con appunto un notevole anticipo nel presentarvi all'aeroporto, perché fatalmente proprio per i fatti avvenuti a New York nel pomeriggio di New York di ieri ci dobbiamo aspettare che i controlli, per quanto possano non cambiare ulteriormente le regole, siano ancora più accurati, certo. E quindi ci sia un'ulteriore necessità di presentarsi in anticipo per evitare così dei ritardi fastidiosi. A questo punto, Deborah, io mi fermerei, consiglierei agli ascoltatori anche la lettura di Motori 24 sul sito del Sole 24 Ore, dove Maurizio Caprino ci informa sulle modifiche normative, come ha fatto questa stamattina appunto sugli autovelox. Noi dopo i mercati prenderemo l'aereo, come avete capito, e allora chiamateci se volete intervenire in diretta 800 24 00 24, se volete scriverci sms, whatsapp anche durante l'aggiornamento sui mercati 349 238 6666 e ora Deborah le borse. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta di denari. Signor Navorsky. Sì. Lei non può entrare a New York senza il visto. Sì. Non può avere il visto senza il passaporto. E non può avere un nuovo passaporto senza un paese d'origine. Non possiamo fare niente per lei qui. Mi dispiace, ma ha sprecato un'intera giornata. Per il momento lei è semplicemente... inaccettabile. Sì. Inaccettabile. Tom Hanks, interprete del The Terminal. Sì, un grandissimo, ma sapevo che ti piaceva questa sapevi. Clip, Deborah, perché alla fine The Terminal, è vero, è tutto ambientato in un aeroporto, ma è un grande film d'amore. E quindi... per quello tu eri convinto che mi piacesse, lo sai. Si sa che sei romantica. Nonostante le mie rigidità, come mi dicono molti amici, insomma, sono una romanticona. No, è che ti tocca anche occuparti di borse, mercati, finanza, insomma, devo cose dove il romanticismo ciò, certo, magari fatica un po' a farsi strada, e invece hai voluto premiarci e premiarti con questa clip. Spieghiamo ai nostri ascoltatori di cosa parliamo adesso, di chi si accinge a fare un viaggio, e speriamo che siano sempre in tanti a poterselo godere. Negli Stati Uniti ci sono orari più rigidi, controlli intensificati, interviste già al check-in, e queste sono alcune delle nuove misure di sicurezza che sono scattate diciamo teoricamente in questi giorni. In realtà molte compagnie aeree le avevano fatte scattare con largo anticipo, e tutte queste nuove misure riguardano proprio chi prende un volo diretto negli Stati Uniti. Tutto ciò in base alla stretta richiesta dell'amministrazione Trump in cambio della sospensione del cosiddetto Electronic ban, Mauro, sai che cosa vuol dire? No, precisamente no. È il divieto di trasportare in cabina dispositivi elettronici più grandi di uno smartphone per i voli in arrivo da 10 scali in Medio Oriente e Africa settentrionale. Quindi se io ho un computer, esatto, un laptop o come diamine potrà chiamarsi, portatile, non me lo posso più portare in cabina per guardarci magari il film che mi sono Esattamente. Scaricato. Esattamente. Allora Trump che cosa ha detto? Te li vuoi portare o meno? Allora io ti sottopongo ad un interrogatorio vero e proprio prima della tua partenza. Perlomeno in soldoni mi pare che sia così, ma chiediamo conferma a Nardo Filippetti, presidente di Astoi Confindustria Viaggi. Presidente, abbiamo capito bene o c'è qualche sfumatura da aggiungere? Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Sì, diciamo che di massima è così, non ci sono delle comunicazioni ancora molto chiare. Prima di tutto su questa faccenda dell'electronic band, dove alcuni paesi extraeuropei sono stati obbligati i passeggeri a dover far mettere gli hardtop in cabina, non in cabina ma in stiva, e di qui il controllo, tant'è che c'è stata una caduta verticale della domanda verso gli Stati Uniti, soprattutto dai paesi del Medio Oriente e dell'Estremo Oriente. E quindi per quello che concerne invece... Ah, prego, prego, mi dica. No, il tema è che però le compagnie aeree, per non saperne leggere né scrivere, come si dice, in realtà, come dire, qualche disposizione nei confronti dei passeggeri l'hanno comunicata, l'hanno adottata. Sì, sì, assolutamente. Non l'ultima quella di potersi presentare all'aeroporto per voli intercontinentali, questo visto che parliamo degli Stati Uniti, per noi italiani si tratta di voli intercontinentali, di presentarsi almeno 3 ore prima della partenza, proprio per cercare di aiutare lo snellimento delle procedure e dei controlli. Cosa che onestamente già da parecchio tempo, indipendentemente dalla comunicazione che ci sono state fatte dalle compagnie aeree, già molti passeggeri si attivavano ad arrivare in aeroporto a tempo debito, proprio per cercare di arrivare dovendo a volte un ritardo non solo della macchina, un imprevisto, per cui anche qualche controllo in più. È un po' per cercare di gestire l'ansia, onestamente, perché parliamo con tanti clienti che prenotano con noi le vacanze verso gli Stati Uniti, arrivano sempre in anticipo, o perlomeno sono sempre arrivati in anticipo. Quindi è abbastanza raro, insomma, però, che ci si presenti all'ultimo istante. Non vorrei aver capito male, Presidente, ogni compagnia potrebbe regolarsi a piacimento, cioè essere più o meno elastica nel chiedere questo anticipo? Oppure la norma è per tutti, cioè le 3 ore, insomma, il tempo di presentazione preventivo per gli Stati Uniti è quello ed è inutile sperare in qualche forma di agevolazione da parte della compagnia? No, assolutamente, nessuna agevolazione da parte della compagnia, perché queste qui sono regole molto tassative e rigide, anche se non sono state comunque scritte e documentate. Il problema è che l'aereo non ritarda, siccome a volte ci possono essere delle procedure aggiuntive a quelle che sono di norma, tipo l'analisi del bagaglio, le domande a chi ha fatto il bagaglio, come lei era presente, solo per cercare di capire dalle persone se sono stati veramente loro a farlo o c'è stato qualcuno, e questa titubanza da parte di colui anche passeggero che ha fatto il bagaglio comporta dei ritardi, e siccome l'aereo ha degli slot ben definiti, certo, non ci si può permettere di avere dei ritardi, quindi non è che qualche compagnia si attiverà in maniera diversa. Si dice 3 ore perché soprattutto anche dei voli intercontinentali salgono mediamente 200-250 persone, il fare il controllo a 250 persone, anche se si mettono più counter, lei capisce che ci sono delle difficoltà e non si può rimandare la partenza dell'aereo. E quindi insomma è opportuno sentire la propria compagnia aerea, Presidente Filippetti, come farlo. Insomma, adesso un conto è chi si rivolge ad un tour operator che organizza completamente un viaggio, una trasferta, il raggiungimento di una località di vacanza o meno. Per chi invece fa una prenotazione diretta utilizzando il sito web diretto appunto della compagnia aerea, ci sono modalità diverse per fare un controllo appunto della situazione, ovviamente? Beh, diciamo che ogni compagnia aerea fornisce tutte le informazioni del caso, certo che chi viaggia con un tour operator, qui non è che perché voglio cercare di supportare la politica dei tour operator, ma è una vacanza sicuramente più tranquilla, tutti quanti si sentono protetti. Poi c'è una legislazione, questa italiana, che comporta e implica la responsabilità del tour operator, non solo per le informazioni, ma anche se oggi le mete non se ne sono più sicure, anche l'ultimo attentato purtroppo di ieri a New York lo dimostra, il fatto di sentirsi supportati H24 da un qualcuno che ti prende per mano e ti guida e trova delle alternative, come quando è successo, non so, l'ultimo blocco dell'aeroporto l'anno scorso per neve a New York, di 2 o 3 giorni nel panico, gente che doveva rientrare. Ecco, questa qui è l'attività dei tour operator che assistono i clienti e si prendono la responsabilità. Poi sui siti delle compagnie aeree possono trovare tutte le informazioni del caso, perché nel momento in cui uno si fa un biglietto elettronico o fa un acquisto su una vendita online, la responsabilità chiaramente è tutta la sua, e di conseguenza anche qualora si dovesse trovare in difficoltà, cosa che non si augura mai a nessuno, ma purtroppo sappiamo che il mondo oggi funziona così. Presidente, due rompicapo le proporrei. Il primo è... mi ero già spaventata, cosa dirà? I liquidi, no, la famosa, insomma, nel bagaglio, sì. Abbiamo parlato del bagaglio. Esatto. Allora, i liquidi, la schiuma da barba, sì, i esatto. profumi, come eccetera, come se andando eccetera. A New York uno il bagno schiuma non lo trova, no? Se certo, lo deve portare perché da ovviamente casa. A New York non ne vendono neanche esatto. di schiuma da barba, e quindi uno si vuole portare... Quella ma ognuno ha il suo ed è affezionato al proprio. Vero, certamente. Le signore ovviamente devono portare il profumo quel profumo, perché a New io York compro non... tutto in giro, guarda, con a me New York proprio... non ci sono profumerie. No, no, io no. Ma a parte gli scherzi, questa cosa appunto dei contenitori dei liquidi genera sempre un po' di incertezze. Attualmente la regola per imbarcarsi, non solo per gli Stati Uniti, ma in generale, qual è? Ed è il primo rompicapo. Il secondo è i documenti per andare invece proprio negli Stati Uniti. Sì. Sono stati in qualche modo modificati in virtù di queste nuove misure di sicurezza, o sono sempre quelle che non so, il passaporto e il visto del consolato? Sì, esatto. Prego. Allora, per quello che concerne i liquidi, sappiamo ormai da tempo, niente è cambiato, che sopra i 100 ml non si possono portare in stiva, e anche quei recipienti che contengono 100 dei ml liquidi... complessivi, presidente. No, no, per ogni singola boccettina. Quindi ho uno shampoo, il bagno schiuma, il profumo, esatto. La schiuma da barba di Mauro, me la porto nella valigia con me. Ognuno di questi okay. non può superare 100 ml, perché e devono 100 ml sono pochissimi. E devono essere inseriti in una bustina di plastica che si trova appositamente o in qualche store lì all'aeroporto, sì, o comunque sì, vengono fornite dal controllo al radiogeno. Per quello che concerne invece il visto, chi non viaggia negli Stati Uniti per affari o per turismo sotto i 90 giorni ha bisogno del cosiddetto ESTA, che sarebbe l'Electronic System for Travel Authorization. Praticamente è un visto che si deve ottenere almeno 72 prima dalla partenza, e che lo forniscono, mi sembra, sia sul sito appunto di il sito istituzionale, esatto, lo raccomando, perché per esperienza diretta dico che andandolo a compilare ci si può imbattere anche in intermediari che te lo compilano lo stesso, ma non si capisce che origine abbiano. Il costo che ti fanno sostenere è identico, ma non hai mai la certezza, perché è scritto in maniera un po' confusa che sia il documento esatto. ufficiale. Costa una quarantina di dollari, per cui andate però sul sito ufficiale e fatevelo assolutamente intercettare. È una durata giusto, appunto per sapere, per confermare ulteriori informazioni, ma questa durata di 2 anni o fino a scadenza appunto del passaporto, e va tenuto assolutamente prima di salire a bordo con il mezzo di trasporto che usiamo. Lo chiedono sempre anche nella famosa intervista preventiva che si fa prima di partire negli Stati Uniti, quella insomma, in cui l'operatore alla compagnia ti chiedono del bagaglio, hai fatto tu il bagaglio, l'hai perso di vista, eccetera eccetera, qualcuno ti ha aiutato e così via. E poi certo, prima della partenza, se si fa una veloce consultazione anche per andare negli Stati Uniti, che ci sembra comunque tutto sommato un continente ormai accessibile a tutti, se si fa un controllo sul sito della Farnesina Viaggiare Sicuri, direi che è bene. Magari arriva qualche tornado, noi non lo sappiamo, e il sito lo indica già. Ma comunque non fa mai male segnalarsi anche questo, non solo se si va negli Stati Uniti, ma magari in qualche località meno, un po' più a è rischio, vero. Considerata più a rischio, allora segnalare anche che ci si sta spostando in quei territori. Noi naturalmente adesso ci dobbiamo fermare, perché insomma, visto che parliamo di viaggi, ci dobbiamo fermare per informazioni sulla viabilità, però restate con noi, perché tra poco avremo anche l'avvocato Marina Castellaneta per parlare di invece contrattempi dei viaggiatori. Salutiamo invece il presidente Nardo Filippetti, presidente di Astoi Confindustria, lo ringraziamo per l'aiuto di questa buon mattina. Buon ponte, grazie, a presto. Grazie, grazie a voi. E per tutti gli altri, traffico. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta... Due di denari. Come fly with me, let's fly away. If you can use some vabbè, prima di volare però, Mauro, rispondiamo a questo ascoltatore che ci accusa di essere un po' troppo pro conducenti spericolati. Ma no, è vero, è un rilievo che è giusto. Nella prima parte di questa trasmissione ci siamo concentrati sui possibili ricorsi per autovelox irregolari. Non era e non vuole mai essere naturalmente un invito a correre, anzi cerchiamo di essere tutti quanti molto prudenti, però può accadere, specialmente con questi rilevatori automatici in strade particolarmente veloci, di superare i limiti a volte anche di poco, ma siccome le multe sono molto molto salate, perché come sappiamo i comuni hanno una necessità anche di introiti da questo tipo di autovelox, ebbene è importante sapere se queste contestazioni avvengono nella regolarità amministrativa oppure, infatti, come abbiamo spiegato, no. Senti, no, quello che volevo dirti però, richiamando sempre le precisazioni che ci ha fatto Maurizio Caprino, ti caldeggerei, se tu sei d'accordo, di fare al più presto una puntata sulla questione della comunicazione dei dati personali quando ricevi un'infrazione, perché io, ringraziando il cielo, non ne ricevo, ma ho la sensazione una volta di non aver controllato se dovevo inviare questi dati o meno, e siccome sono veramente multe salatissime e decurtazione dei punti della patente, magari richiamare quelle regole là forse sarà necessario. Lo faremo senz'altro. Intanto adesso restiamo in aereo però, sì, in qualche modo, perché in questa ultima parte di Due di Denari ci ha raggiunto l'avvocato Marina Castellaneta. Buongiorno avvocato. Buongiorno, grazie. Perché con l'avvocato vorremmo parlare invece delle disavventure che possono capitare ai passeggeri. Posso solo dire che l'esta per gli Stati Uniti costa $14, io ho detto 40 prima, non mi chiedere per quale motivo ha ragione l'ascoltatore che me lo segnala. L'hai pagato più caro. No, ho pagato questa cifra qua, ho detto 40 ma avendo in testa, non mi chiedere perché stamattina do i numeri. Ti hanno turlupinato. Esatto. Avvocato Castellaneta, allora innanzitutto la faccio precedere da una notizia che riguarda proprio Ryanair, che è stata nell'occhio del ciclone, perché non c'è crisi che tenga per questa compagnia. No, perché oggi sui siti e anche sul giornale, sul Sole 24 Ore, possiamo apprendere che pur avendo cancellato centinaia di voli, i profitti sono stati record, 1,2 miliardi, quindi sostanzialmente il primo semestre Ryanair non ha subito contraccolpi nei conti per quanto riguarda la cancellazione dei voli. Però, avvocato, io volevo un po' chiederle quali sono complessivamente i diritti del passeggero, perché spesso la Corte di Giustizia, specialmente quella dell'Unione Europea, cioè la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, interviene per dire è dovuto il rimborso in questo caso, è dovuta la protezione, nel senso se il volo è stato cancellato e così via. Altre volte invece, non so, in caso di un clima sfavorevole, cioè il ciclone, cioè il tornado, non è dovuto alcunché. Certo, dipende. Come sono più o meno le indicazioni dei giudici? Sì, in realtà le indicazioni dei giudici si basano sul regolamento dell'Unione Europea 261 del 2004 e quindi sono molto chiari nel ribadire quanto è scritto in realtà nel regolamento. Il regolamento ovviamente è stato creato per tutelare i passeggeri e quindi ha una visione proprio orientata nella tutela del passeggero, che è la parte debole rispetto ai colossi delle compagnie aeree. E in realtà nel caso di cancellazione, mi limito alla cancellazione, ma in realtà la tutela riguarda anche i ritardi aerei ovviamente. Nel caso di cancellazione il vettore deve rimborsare ovviamente il biglietto, ma deve anche indennizzare, ci sono delle cifre specifiche chiarite nel regolamento, il passeggero. Ovviamente questo salvo nel caso in cui ci siano circostanze eccezionali, che vuol dire tutto e niente, nel senso che qui scatta l'interpretazione della Corte di Giustizia, perché per esempio la Corte di Giustizia ovviamente nel caso del vulcano, dell'eruzione del vulcano, ha detto che è una circostanza eccezionale, ma quando si è trattato di volatili che entravano nei motori dell'aereo ha detto comunque dovete avere a terra un aereo che possa sostituire quello previsto, e quindi è molto propensa a tutelare il consumatore, il passeggero in questo caso ovviamente. Nel caso di Ryanair però c'è un problema maggiore, perché il regolamento ovviamente è stato creato per tutelare i singoli passeggeri, ma l'intervento di Ryanair è stato massiccio, nel senso che abbiamo avuto cancellazioni di 400.000 che hanno colpito 400.000 passeggeri, sono stati cancellati 40-50 voli al giorno, e in più vediamo anche che Ryanair ha avuto comunque, malgrado alcune compensazioni pecuniarie che paga e pagherà, ha comunque degli utili molto forti, e quindi insomma c'è una non c'è una tutela rafforzata nei confronti di questi comportamenti delle compagnie aeree, che ovviamente sono diversi rispetto all'annullamento di un titolo. Adesso vediamo, sì, sentiamo un po' a tratti l'avvocato Castellaneta, però ricordiamo anche che per quello che riguarda Ryanair anche l'antitrust è intervenuta, sottolineando come la compagnia abbia fornito informazioni con modalità incomplete, non trasparenti e fuorvianti, quindi in linea con quanto era stato pronunciato dalla Corte di Giustizia appunto dell'Unione Europea in maggio, perché è da qui poi che siamo partiti, per cui non credo che sia detta ancora l'ultima parola rispetto a quanto hanno ricevuto i passeggeri coinvolti in questi tra disagi. Sappiamo appunto che queste cancellazioni, prego. Avvocato, sì, scusa, eccoci qua. Scusi, dicevo, in realtà le compagnie aeree devono avvisare almeno 2 settimane prima i passeggeri, e devono tra l'altro farlo direttamente, perché la pronuncia della Corte di Giustizia era in questo senso, cioè non basta avvisare l'agenzia, il tour operator, bisogna avvisare direttamente il passeggero 2 settimane prima. Esatto, perché ricordiamo che peraltro questa pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea deriva proprio da una contrapposizione che aveva avuto come protagonisti un cittadino olandese che doveva raggiungere appunto una località molto lontana, adesso non mi ricordo esattamente, a Paramaribo doveva andare, capitale, sì, del Suriname, ecco, era un volo operato dalla SLM, e questo decollo per questo volo era previsto il 14 novembre, adesso ricostruiamo le date. In realtà la compagnia aveva comunicato all'agenzia di viaggi la cancellazione del, sì, volo oltre un mese prima, però al passeggero l'agenzia non l'aveva comunicato tempestivamente, ma a ridosso della partenza. Esatto. Quindi da lì era nata poi tutta la esatto, tutta la faccenda finita. La Corte, appunto, ha detto comunque la compagnia aerea deve avvisare direttamente il passeggero. E tra l'altro sul punto è intervenuta anche l'Agenzia dell'Aviazione Civile inglese, chiedendo a Ryanair di avvisare direttamente con mail i passeggeri di tutti i voli cancellati. E insomma, quindi quando si parte, signori miei, tenete a portata di mano tutti i dispositivi possibili, perché può arrivare la mail, può arrivare l'SMS, e quindi una comunicazione in qualche maniera ci deve raggiungere se, sì, qualche, perché, cosa nel piano di volo cambia. Ecco, perché tra l'altro, avvocato Castellaneta, le chiedo una risposta proprio flash, ma può capitare che il volo mi venga cancellato e io venga riprogrammato su un altro volo magari nello stesso giorno, però a poche ore di distanza, e questo è legittimo da parte della, sì, compagnia. Sì, questo si può fare, perché ovviamente poi gli indennizzi sono parametrati proprio a questo dato, cioè se la compagnia riprotegge subito e comunque nell'arco di 2 ore, anzi in alcuni casi fino a 4 ore, non c'è questo indennizzo che varia da 250 a 600 euro a seconda della distanza del viaggio. Però la cosa che volevo dire è che mi sembra che nel regolamento ci sia però una lacuna, perché va bene la riprotezione, l'indennizzo, però se uno ha prenotato anche il soggiorno e l'ha pagato quando il volo è cancellato, in realtà ha anche dei danni collaterali. Certo, ne riparleremo, avvocato Castellaneta, dobbiamo adesso ridare la linea alla regina. Caro Mauro, noi però cara torniamo, Deborah, domani. Ma sicuramente, ringraziamo Paolo Corleoni in regia questa mattina, ringraziamo come sempre Giulia Lauricella e Marco Lombardo. Bene. Due di denari torna domani alla stessa ora, le 11. Buona giornata.